Corso basico di Kabbalah, parte 1, file audio 21. La domanda perché? Terza domanda. Perché? La risposta è la correzione. Sappi che non puoi mai dare una risposta sensata su un perché di una domanda. Ti sbaglierai sempre, ma diventa possibile con queste risposte eterne. Perché? Perché? Per portare in me una correzione. Che tipo di correzione? Da chi? Certamente da me, ma anche considerando il tutto. Nel profondo del mio cuore, devo dire, correzione. Certamente il lavoro deve essere fatto dall'esterno, ma dal profondo del mio cuore devo dare lo sforzo per correggermi. Per non essere coinvolto, per non lasciarmi trascinare in qualsiasi situazione. Nessuna tragedia, qualunque sia la situazione, afferma nel tuo cuore, nessuna tragedia, perché non c'è una cosa come la tragedia dentro il piano della creazione. Non perdere tempo con i sogni. Non c'è mai stato un'apocalisse. Non c'è mai stata una tale tragedia. E non ci sarà. Forse ci potrebbe essere stato un apocalisse, ma solo per il bene. E quando questo è possibile, solo quando è coinvolta la morte. Quando tutti gli anni di correzione saranno passati via, la morte non ci sarà più. E questa è l'unica apocalisse che avrebbe avuto luogo. Questo è ciò che devi fare. Tu devi lasciare morire il tuo amor proprio. E quando tu fai così, diventi un ebreo, con Yihud, unità. Allora tu hai l'unità con il Boré, creatore. Allora poi e vedrai e verrai in conformità con l'eternità. Non ci sarà più nessuna tragedia. Qualsiasi condizioni possono essere. Devi sapere, nello spirituale, non è mai avvenuta una cosa come una tragedia, mai. quando pensi, ma questo non è possibile. Certamente ci sono state tragedie, molte tragedie. Guarda la storia. Cosa ci fai qui? Non pensare in questo modo. Questi sono sentimenti dello spirito di gruppo e non abbiamo nulla a che fare con lo spirito di gruppo, solo con noi stessi. Puoi avere amore per lo spirito di gruppo, ma non per collaborare con lo spirito di gruppo. Per lavorare con lo spirito di gruppo, perché ti senti leale verso di loro, tu senti emozione, senti la tragedia. Per favore, sii consapevoli di questo. Non lasciarti mai guidare fuori strada dalle tue cosiddette reazioni umane. La quarta domanda, dove? Dove? All'interno di me stesso. Qualunque cosa accada, di a te stesso, è dentro di me. Non pensare mai di poter sapere qualcosa al di fuori di te stesso. Tutte le apparenti miserie, i sentimenti, sanno che non si può mai sentire una cosa proveniente dal passato. Devi sapere, ogni giorno è diverso. 60 anni fa era una realtà diversa. Ogni giorno ha una correzione speciale. Accanto di tue correzioni. Non è riguardo il conoscere, ma dal profondo devi sapere che è tutto sulla correzione. Nel profondo te senti, hai la convinzione, è tutto sulla correzione. Ed essere consapevoli. Le nostre comprensioni terrene, il nostro intelletto terreno dice: quella persona è un furfante. Lui è colpevole. Il perché e il dove li hai sempre dentro di te, e mai fuori di te stesso. Nessun altro posto dopo all'interno di te. Tu sei qui, ora sei dentro te stesso. È questo posto dove tu sei ora, e questo è dentro di te. La quinta domanda, chi? Chi è qui? C'è solo una risposta possibile, me. Sono io me stesso. Io sono quello che deve fare la correzione. Sembra semplice, ma sai che è molto difficile. Questo ha bisogno di allenamento. Ogni situazione che avviene, usa questo. Non solo la lettura, ma lavora con essa. La tua reazione interiore è la mediazione. L'azione interiore che fai è che tu devi costruire la forza interiore per quella condizione. La tua risposta deve venire dal profondo. Tu sei colui che deve essere d'accordo. Significa che devi giustificare questa risposta. È detto, colui che non si prepara prima, e per Shabbat non godrà. Cosa significa questo? Prima ci devono essere alcuni preparativi e poi puoi studiare. La meditazione è come fare i preparativi. E il risultato è l'unità Shabbat. Questo è Shabbat. E non come i miei fratelli ebrei celebrano Shabbat mangiando e bevendo e indossando bei vestiti. Ma continuiamo con ciò che abbiamo imparato nella lezione 16. Hai letto riguardo Aoria Shar e di Massah. Sai che c'è Or e c'è Kli. Aoria Shar, la luce diretta. Massah, schermo. Or, luce. Kli, il ricevitore o il desiderio. C'è Or e c'è Kli. E in mezzo abbiamo Massah. Massah deve essere visto come forza di volontà, la tua forza per non ricevere il piacere in un modo egoistico da egoista. Questo è quello che chiamiamo Massah. Oryashar, la luce diretta. Viene a me e ora rifletto questa luce, e questa luce riflettente è chiamata Or Hozer. Quando uso il mio Massah, che significa la mia forza di volontà, io rifletto qualsiasi cosa che sta avvenendo a me. Mi confronto con quel che sta avvenendo a me e guardo in che tipo di misura io posso ricevere. E quando ho costruito il Massah, il Cli può ricevere un altro tipo di luce, Or Hozer. Or Hozer è una luce spessa. E con questo in mente guardiamo a cose che ho già detto in questa lezione. Guardiamo alle 5 domande. e le cinque risposte eterne. Ti ho già detto, ogni situazione o condizione è qualcosa che vuole venire dentro di me, vuole penetrarmi. Avere una pressione su di me, dalla parte esterna c'è costantemente la pressione di penetrare. Cose buone o cose cattive. Le seduzioni sono enormi. E tutte loro vogliono penetrarmi. Ogni cosa che sta venendo dalla parte esterna vuole penetrarmi. Come posso trattare con questo? Attraverso la via della meditazione. Mediante la meditazione io posso e avrò la vittoria. Ci sono sempre circostanze, situazioni, che cercano di disturbarmi. Puoi confrontarlo con un gioco, il gioco del gatto con il topo. Perché ci sono cose che mi piace ricevere. E ci sono cose che non mi piace ricevere. Quando faccio uso di questa meditazione, costruisco dentro di me una sorta di sistema di filtri. E questo sistema di filtri mi aiuta a ricevere ciò che è buono per me. Cosa è buono per me per venire in adempimento? E per questo faccio uso delle risposte eterne. In ogni situazione faccio uso di queste risposte. È il risultato del mio sforzo. Le risposte rifletteranno all'interno or coser la luce riflettente. Sono io che sto riflettendo. Faccio uso di queste risposte in ogni situazione o condizione. La situazione, la condizione è o rilasciare la luce diretta. Quello che voglio ottenere è questo. Così vedi che non sto parlando di qualcosa di teorico. Questo meccanismo è creato. È installato dal creatore. E quando usiamo questo meccanismo, diventiamo consapevoli dell'interazione tra luce e mancanza, o in ebraico tra or e kli. La situazione. La condizione è la stessa come Oryashar. Vuole penetrare, conoscere il piacere in sé non è sbagliato. È il modo in cui lo gestisco, Ne ho la forza o mi manca la forza per gestirlo? In altre parole, cosa ho intenzione di fare con esso? Sappi che ciò che ci viene dato dall'alto. Così ora possiamo costruire la forza. Che dovremmo scegliere la strada giusta e non solo la strada corta o tagliare la strada. Prendere la strada corta non è sempre più veloce. Abbiamo la situazione e Oryashar. Che sta facendo pressione su di me, che vuole sedurmi. E qual è il ruolo del Cli in questa costruzione delle cinque domande? In ogni situazione o condizione ci sono tali domande. Come perché me? Perché me? Chi mi ha fatto questo? Eccetera. Ora hai delle risposte. Perché è per la correzione. Chi è me? Usando queste risposte, rivelerai in te stesso cosa era nascosto. Ora inizi a vedere quello che era nascosto dentro il nostro mondo. Ricorda, c'è una particolare situazione o condizione che vuole penetrare. E questo è Oryashar, la luce diretta. Le domande sono Kli. Kli significa mancanza. Kli significa desideri. In che modo posso evolvere la situazione? La risposta è Orchoser. E il Massah? Massah è la forza di volontà per realizzare queste risposte eterne. Questo è il Massah. Non è difficile. Quando lo hai trovato una volta fuori, tu vedrai attraverso esso. Ma devi metterlo in pratica. Hai bisogno del desiderio per fare questo, per fare in questo modo. È necessaria la forza di volontà per realizzare queste risposte eterne. Questo è Massah. Un altro modo di guardare il Massah è la forza dell'ora, l'ora del momento. Lascia che te lo spieghi in altre parole. Dobbiamo costruire la forza di volontà, la forza eterna per queste risposte eterne. Io ho la perfetta situazione, meno la forza di oggi della mia situazione presente. Abbiamo la forza eterna delle risposte eterne. E abbiamo le condizioni della forza attuale della mia situazione presente. Quando prendi queste due forze, prendi la forza presente che giace sotto la situazione eterna, e tu le estrai, la risposta è la differenza. Risposte eterne, forza presente, e questo dà una differenza. Abbiamo le risposte eterne per ogni situazione. Abbiamo anche la forza interiore che è in conformità con le cinque risposte. La forza della risposta eterna è la massima forza. La condizione che io ho ora sta considerando sempre meno la risposta. Altrimenti sarebbe zero. Cioè, io sarei nella forza dell'adesso. Quando rimane qualcosa tra la forza della risposta eterna e io ritiro la situazione presente, ciò che rimane è il delta, la differenziazione. Differenziazione. E la mediazione significa la differenza. La delta è la differenza. E la mediazione significa che devo neutralizzare il delta in modo che diventi zero. O in altre parole, che è venuto in equilibrio, uguali tra loro. E questa è la situazione presente, la forza dell'ora. E nell'ora ho il 100%. E quando ho questa situazione, mi sento completo. Non c'è più solitudine perché non c'è più differenza. Il delta è scomparso. Non c'è differenza tra le cinque risposte eterne. E quando lavoro sodo, effettuo uno sforzo per cui faccio uso della forza di volontà per raggiungere la risposta giusta. Sono nella forza dell'ora, considerando la risposta. Abbiamo la situazione, Cli. Il cli deve essere visto come una domanda, mancanza. E abbiamo la luce, Or, e lo schermo, Massach, dentro la situazione. Ora ho intenzione di chiedere a me stesso: chi è il creatore Boré? Chi è lui? Cos'è? E perché? Come svilupperò questo? Abbiamo Clea, abbiamo Or, è più la situazione, la condizione. C'è così tanta seduzione, come posso resistere? Con le cinque domande. Quando ho una domanda o mancanza. E ci sono cinque risposte. E posso dividerle in forza. Per esempio, in una scala da 1 a 5. Ad esempio, qual è il mio compito? Il mio compito è: la luce sta venendo a me e ho una domanda. Questa domanda è mancanza, desiderio. È qualcosa che non è corretto in me. E io voglio il riempimento. Guardalo in questo modo. Domanda significa mancanza. E la risposta è il riempimento. Essere consapevole della luce, or vuole sempre riempirci, ovunque. Quando mi fai una domanda, io porto in alto la tua domanda e poi ti do una risposta. Quando faccio così la risposta, che do a te, tu la compirai, capirai, tu la capirai e la accorgerai. Non è una semplice risposta in parole, ma è la forza che ti sto dando. Non solo le parole sono rilevanti. La forza è una parte essenziale della domanda. Quando porto in alto la domanda, posso dare una risposta allo stesso livello di chi sta chiedendo. Ora c'è un accordo con la risposta e la domanda. E io posso dare una risposta adeguata. Hai i tuoi organi di consapevolezza. E sulla superficie di questi organi di consapevolezza costruisci, considerando le tue risposte, le risposte eterne. Prima hai bisogno di forza per costruire le risposte eterne. Come sarà fatto? Sappi che sta succedendo all'interno di te. E non solo dirlo con la tua bocca, ma anche sentirlo. Sentirlo dentro di te. Devi essere molto sincero con te stesso. Solo allora puoi costruire la risposta, la forza per le tue domande. Hai cinque domande. Quindi, ci sono cinque punti di forza considerando le cinque risposte. E per riflettere le cinque risposte hai bisogno di forza, forza, forza per dire. Qualunque cosa sta avvenendo per il bene della correzione. e per questo hai bisogno di forza. Perché l'ego, il tuo ego ti dice no, è stata colpa sua, non mia. Ho bisogno di forza per dire è per la correzione. Qualunque cosa succede è una correzione. E tu hai bisogno di forza anche per non dire ogni cosa è perfetta. Hai bisogno di forza per essere veramente serio con questo lavoro di correzione. Qualunque sia la situazione, una buona o cattiva situazione, ho bisogno di forza. E questa è la costruzione di Massah. Dobbiamo fare questo lavoro, costruire il Massah fino alla venuta del Mashiach. In ogni situazione, anche nella scienza, quando c'è malattia o qualsiasi cosa accada, hai bisogno della forza per la costruzione del Massah. Sappi che le risposte anche per i problemi più grandi si trovano in queste risposte. Lascia che ogni domanda inizia con queste cinque parole. E la risposta è la tua correzione. E la risposta è la tua correzione. In ogni situazione puoi usare queste cinque domande e risposte. Più costruisco la forza dentro me stesso, noterò che posso gestire una situazione sempre meglio. La situazione. Il mio ego vuole che creda che un'altra persona sia colpevole. Ma quando lavoro con queste domande, io giustifico in un modo corretto. Solo attraverso queste cinque risposte eterne, posso arrivare alla vera giustificazione. Queste risposte mi porteranno al bene sempre. Certo che io devo lavorare solo. Ho bisogno di molti sforzi per affrontare una situazione in questo modo. Ma questa è la via in cui posso correggermi. Qualunque cosa accada è per la tua progressione personale. Sei tu che devi venire alla realizzazione. E ricorda, fallo con gioia. Porta la gioia in tutto il lavoro che devi fare. Senza gioia non è possibile. Cosa significa questo? Quando non hai la gioia, non senti la gioia, sappi che stai trascurando le cinque risposte. E queste cinque risposte sono la mediazione. La mediazione è quel pezzo di differenza tra la risposta perfetta e la mia reazione non corretta. E riguardo a tutto su come mi porto in ogni situazione, in accordo con queste cinque domande e queste cinque risposte eterne. Funzionerà costantemente e per sempre. Questo ti porterà alle situazioni migliori in quel momento. Costruisci sulla forza. Costruisci la differenza tra la forza e le risposte eterne. Le risposte eterne hanno determinati punti di forza per il bene della correzione. Quando sei nella condizione di correzione, sappi che questo è un punto di forza specifico. Quando non c'è correzione, trascuri o dimentichi di usarlo, sappi che avrai carenza, mancanza di forza per la risposta eterna. Non importa qualunque situazione tu possa avere, quando trascuri questo, tu hai mancanza. Fin quando qualcosa rimane, qualche residuo, hai bisogno di forza per arrivare al punto zero, al differenza zero. Non c'è differenza. È il punto zero, è la forza dell'ora. La forza dell'ora è la condizione dello zero. Zero della differenza. Te l'ho già detto, vivi nell'ora. È facile dirlo, ma ora hai uno strumento. Usa questo strumento e tu verrai nell'ora. Più sei nell'ora e ti batti per il 100%, più diventerai vivo. La depressione, eccetera, scomparirà. La sofferenza sparirà. L'uomo non è creato per soffrire, ricorda questo. Era ed è l'uomo stesso che ha elevato la sofferenza. C'è sofferenza, ma solo come un effetto secondario della tua correzione. Ma la sofferenza non è necessaria. Vedi la sofferenza come dolore crescente, proprio come con un bambino piccolo che soffre perché i denti stanno spuntando. Stiamo soffrendo perché non possiamo dare. Questa è l'unica ragione per la sofferenza nel mondo. Quando sono nella condizione di ricevere per me stesso, io ho sofferenza. E soffro quando provo pietà di me stesso. Diventa consapevole di questo. Certo, ci sono momenti di profonda sofferenza, ma quando io provo, qualunque possa essere la situazione, ma tento a ridurlo al punto zero, sto aumentando la forza. Ogni volta quando tu mediti, cosa stai facendo? Estrai la luce dai tuoi desideri egoistici. E questo è quello che dobbiamo fare. Non c'è altro lavoro che ci viene dato. Meditazione significa stai facendo un movimento interiore. Stai portando scintille di luce sopra e lì saranno corrette. E questo lavoro ti porterà alla completezza. Ma sei tu che devi tirar su la forza per venire a quella situazione, alla completezza. Il tuo amor proprio deve essere ridotto al minimo. In un certo senso lascia che il tuo ego vada via. Cosa sta succedendo quando metti un seme nel terreno? Esso marcisce. Ogni volta che mediti il tuo amore proprio, il tuo ego marcisce. Marcio sembra una parola orribile, ma è lo stesso con un seme nel terreno. Quando un seme non è marcio, è impossibile che una pianta cresca. Tu vieni in vita quando lasci il tuo ego. Il tuo amor proprio va via marcio. Guardalo in questo modo. Il tuo ego, il tuo amor proprio sta fertilizzando il terreno, in modo che il corpo eterno possa crescere. E questo è ciò che stai facendo. Tu lasci crescere le scintille di luce fuori dal tuo ego. Questo è il processo della resurrezione. La resurrezione della morte, la resurrezione dei corpi morti, dei desideri morti. Ciò che rimane è il tuo vero ego. Possiamo parlare solo dell'ego quando è mescolato alle scintille della luce. forze impure del mio stesso amore, il desiderio di ricevere per me stesso, deve essere mescolato con le scintille di luce or. Questo è ciò che deve accadere. Il desiderio per ricevere è un desiderio neutrale. L'egoismo non nasce. Il ricevere non funziona, ma devi sapere. Dentro il desiderio di ricevere ci sono scintille di luce. E noi dobbiamo portarle in alto. E questo è possibile solo quando lascio il mio ego marciare nel terreno. Marcire nel terreno. Marciando nel terreno. E questo seme marcio non può ferirmi. Solo allora posso diventare libero. E quando io sono libero posso e arriverò alla pienezza eterna. Forse ora la tua testa è abbagliante. Lascia che le parole ti penetrino lentamente. Quello che stiamo facendo è superumano. Cosa significa superumano? L'umano è egoista. Quando io lo faccio per me stesso. Quando voglio approfittare da ogni situazione. Il nostro lavoro è quello di tirar fuori la luce dell'ego verso l'alto. Questo è il nostro lavoro beneficio, alzare la luce. Cosa significa questo? Tu dici che non sono ancora corretto. Sono ancora nell'oscurità. È scritto in Genesi. Il creatore ha creato diviso, fatto una separazione tra la luce e l'oscurità. E stiamo facendo lo stesso. Dobbiamo anche dividere ogni momento, ancora e ancora e ancora. Stiamo tirando la luce dall'oscurità. Questo è il lavoro che tu e io stiamo facendo.